Salva Danaio. Buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproporremo il meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Dedichiamo la prima parte della trasmissione al tema della beneficenza, in particolare al ruolo svolto in Italia dalle fondazioni. Deborah Rosciani ne ha parlato lo scorso 2 giugno con Mario Romano Negri, presidente della Fondazione della Provincia di Lecco, oltre che coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. Giacomo Ponti, dell'omonimo acetificio, imprenditore e grande filantropo, e Silvio Valtorta, segretario della Fondazione della Provincia di Brescia. Italiani popolo di benefattori? Così sembrerebbe. C'è il ricco imprenditore brianzolo che decide di donare parte della propria eredità. La casalinga milanese, che offre la nuda proprietà della sua casa del valore di 500.000 euro. Altri mettono a disposizione cifre minori, ma sempre con lo stesso intento, destinare i propri soldi a diversi progetti filantropici nel proprio territorio, con un controllo costante sul loro utilizzo. Il panorama della beneficenza italiana può avere tanti nuovi piccoli Bill Gates che contribuiscono alla crescita di un ancora poco conosciuto fenomeno solidaristico, le fondazioni di comunità. Un modello nato in America, grazie anche alla massiccia presenza di Paperoni. Attualmente negli Stati Uniti ci sono oltre 700 fondazioni sparse sul territorio con un patrimonio di 48 miliardi di dollari ed erogazioni per 4 miliardi e mezzo. Al secondo posto si piazza il Canada con 171 fondazioni che contano su un patrimonio complessivo di circa 2,8 miliardi di dollari e fanno erogazioni per 137 milioni di dollari. Ma la grande sorpresa è che sul podio trova posto anche l'Italia, che ha di recente superato il Regno Unito con 30 fondazioni di comunità locali, un patrimonio di 225 milioni di euro ed erogazioni per 25 milioni di euro. Allora, se siete interessati all'attività delle fondazioni di comunità, chiamateci questa mattina all'800 24 00 24, se conoscete esempi di donazioni importanti, anche perché molto spesso l'attività dei filantropi rimane nell'ombra e la solidarietà vera d'altronde si fa attraverso anche questo sistema. Se siete anche incappati, in senso positivo naturalmente, in qualche progetto che si è sviluppato sul vostro territorio grazie all'attività delle fondazioni di comunità, raccontatecelo e ci farà sicuramente piacere mettere a confronto queste esperienze con quelle che invece ci racconteranno intanto il dottor Mario Romano Negri, presidente della Fondazione della Provincia di Lecco, ma come dicevamo prima anche coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. Perché, dottor Negri, dobbiamo un po' raccontare la storia di queste fondazioni in Italia. Come è nato il mondo delle fondazioni di comunità in Italia? Fu una scelta strategica ben precisa, perché quando Fondazione Cariplo decise di cedere il pacchetto azionario di Cariplo per un giorno ad Ambroveneto per creare poi Banca Intesa, in quel momento recisse tutti i legami che essa aveva con la banca. Fino a quell'epoca l'attività di beneficenza era svolta attraverso le filiali della banca. Da quel momento Fondazione Cariplo si trovò con un palazzo a Milano, 50 impiegati e i commissari disseminati sui territori. Ci si pose la domanda: cosa facciamo? Cioè, creiamo degli uffici distaccati sui territori o inventiamo qualcosa di nuovo? E la scelta fu di tentare di creare queste fondazioni comunitarie in Italia che interagissero col territorio per creare valore, per creare nuova ricchezza a favore del terzo settore, di quelle categorie, di quei settori della nostra società dove non interviene nessuno, proprio per migliorare il tessuto sociale in cui noi viviamo. E quindi vi siete inventati un modello sostanzialmente nuovo, però maturandolo anche dalle esperienze anglosassoni. Indubbiamente abbiamo recepito il modello anglosassone, cioè un fondatore mette a disposizione un patrimonio e poi dopo diciamo, la gestione di questo patrimonio deve interagire con la società per crescere. Noi fummo scelti fra i primi per fare la sperimentazione e la nostra fondazione fu ufficialmente costituita nel 1999. Ci eravamo prefissi di raccogliere allora 3 miliardi di lire in donazioni a patrimonio in 5 anni avremmo la bella sorpresa di poterne raccogliere 6 miliardi e mezzo in un anno e mezzo. Quindi in pochissimo tempo noi raggiungemmo tutti gli obiettivi di sfida che erano stati fissati da Fondazione Caritas. Dottor Negri, oggi il vostro patrimonio a quanto ammonta? Oggi il nostro patrimonio ammonta a 17 milioni e 300 mila euro. Di questi 17 milioni e 300 mila, 10 sono di derivazione Fondazione Caritas, mentre tutto il resto è ripartito in 30 fondi patrimoniali costituiti da privati, da aziende, da associazioni e anche da comunità. Ecco, quello che va spiegato bene è che intanto questa dotazione patrimoniale di 17 milioni di euro non è quella che poi concretamente viene messa a reddito per sviluppare progetti di sostegno al territorio. Questa è la vostra cassaforte, il vostro salvadanaio. Da questa si parte invece con le attività di raccolta di nuovi fondi. Diciamo, ecco, questi sono soldi che non verranno mai toccati, questi sono costituiscono il salvadanaio intoccabile. Noi al donatore che decide di costituire un fondo patrimoniale diciamo chiaramente: questi soldi non sono più tuoi, però la fondazione ogni anno ti rendiconterà quanto ha reso il patrimonio che tu hai donato e ti lascerà anche la facoltà di decidere come spendere questo reddito nell'ambito dei bisogni sociali del territorio. Certo, allora questo, diciamo, abbiamo creato questa tracciabilità della donazione, cioè il donatore che fa un gesto, che si sente di fare un gesto di donazione, di privarsi del suo patrimonio per donarlo alla fondazione, però può seguire nel tempo, cioè anno per anno, per vedere dove è andato a finire il gesto di generosità che ha fatto. Allora, dottor Negri, tra l'altro poi dopo spiegheremo anche ai nostri ascoltatori come si fa concretamente a fare le donazioni e soprattutto come le organizzate, come le gestite, perché non è che qua si parla di un'attività di persone che bussano alla vostra porta e vi dicono: vi lascio questo assegno, arrivederci e grazie. C'è qualcosa di molto più complesso e molto più organizzato, del quale peraltro rispondete molto concretamente, in maniera molto trasparente, alle persone che fanno queste donazioni con le modalità che poi scelgono. Ci sono i testamenti, ci sono anche altre vie e ci sono dei precisi bandi di concorso che voi organizzate proprio per essere, lo ribadisco ancora perché questa è la parola che vorrei utilizzare per tutta la trasmissione, molto trasparenti, quindi veri e propri bandi di concorso che vi permettono di utilizzare in maniera molto chiara i fondi che vi arrivano per il sostegno del territorio. Dottor Valtorta, forse in un minutino di tempo ci riesce a raccontare di questo lascito enorme che è arrivato alla Fondazione della Provincia di Brescia, 4 milioni di euro, una cifra davvero enorme, che avete utilizzato in che modo? Invitato non l'abbiamo ancora utilizzata, però volevo collegarmi un attimino all'intervento del dottor Negri per sottolineare che l'intuizione della Fondazione Caritas è stata veramente formidabile. Praticamente le nostre sono delle fondazioni erogative, il nostro scopo sociale è quello di effettuare erogazioni. Quindi patrimonializziamo risorse che generano frutti che poi vengono destinati alle organizzazioni non profit. Ecco, per esempio, quindi questo lascito Burlotti del quale si parla nel vostro territorio da 4 milioni di euro, per esempio, visto che ancora non avete deciso come destinarlo, ma immagino che un'idea ce l'abbiate. No, è un legato molto preciso. Come il dottor Burlotti, già in vita aveva costituito presso di noi un piccolo fondo in memoria della moglie. Alla sua scomparsa ha disposto nel suo testamento un legato a favore della Fondazione della Comunità Bresciana per incrementare quel fondo titolato alla moglie. E poi il restante valore, stimato nell'ordine di circa 4 milioni di euro, sarà suddiviso fra altri sublegatari, che posso anche elencare: una scuola materna, un istituto parrocchiale, una parrocchia, una casa di riposo, la diocesi di Brescia per l'attività dei missionari bresciani nel mondo. Certo, quindi piuttosto che suddividere questo lascito, sì, questa persona e andare direttamente a magari distribuire assegni a queste comunità, vendere, l'ho fatta attraverso voi e di destinare le risorse prestabilite a favore di queste organizzazioni. Benissimo, ci ha raggiunto adesso telefonicamente Giacomo Ponti. Giacomo Ponti è l'ultimo erede di una famiglia che da oltre da quasi 150 anni è votata ad un prodotto dalla tradizione plurimillenaria, insomma l'aceto Ponti lo conosciamo tutti, ma in realtà parliamo di una famiglia di imprenditori molto votata anche alla propria al proprio ambito territoriale. Giacomo Ponti, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Allora, suo zio Guido Ponti, oltre che ad essere un grande imprenditore, è anche un grande filantropo e credo che abbia coinvolto un po' tutta la famiglia nell'attività della Fondazione di Comunità di Novara. Che cosa fate esattamente? Perché avete scelto questa strada per sostenere il vostro territorio piuttosto che un'altra? Perché poi credo che le opportunità avrebbero potuto essere diverse, no? Naturalmente, è stato scelto questo perché partiamo dall'assunto che l'attività imprenditoriale della mia famiglia ha nella sua essenza il fatto che il patrimonio aziendale non è solo un patrimonio della famiglia, ma è un patrimonio del territorio, di tutte le persone che ci lavorano all'interno, e quindi è stato fatto questo fondo all'interno della comunità della Fondazione del Novarese, intitolato ai miei nonni, a Guido Vittorio Ponti, proprio per il sostegno delle attività sociali nella provincia di Novara, rivolte ai portatori di handicap, alle persone meno fortunate, e le attività sociali nell'ambito dei comuni di Sizzano e Gemme, comuni nei quali la mia famiglia ha avuto origine e ha cominciato dalla propria attività imprenditoriale. E quindi si è scelto di intraprendere questa via, quella del fondo all'interno del fondo della comunità novarese, proprio perché valutando l'esperienza e la capacità evidentemente della fondazione e poi per i minori costi di gestione che presenta rispetto a un fondo gestito in proprio, insomma, certo. Una fondazione gestita in proprio. Quindi diciamo che anche un po' l'aspetto economico non è che lo trascuriate completamente, perché fate filantropo. Infatti si è più efficienti e quindi riteniamo che l'efficienza e i minori costi, tutto quello che si risparmia si riesce poi a offrire alle persone più bisognose, alle persone meno fortunate, quindi è stata una scelta ragionata e efficiente. Certo. Dottor Ponti, i filantropi sono tradizionalmente silenziosi, no? Non tutti operano alla Bill Gates, nel senso che comunque lui ha costituito una delle comunità di sostegno al proprio territorio, alla propria economia più note al mondo, ma proprio per la figura così importante del personaggio è chiaro che poi anche queste attività si conoscono, ma d'altronde lui, grazie anche al suo nome, riesce ad arricchire il patrimonio della sua fondazione e poi ad operare a seconda appunto di come crede, destinando le risorse che raccoglie. Ma mi chiedo, nella comunità imprenditoriale, magari quella più vicina a lei, ci sono delle persone che sono restie ad un impegno di questo tipo? Lei in qualche modo cerca anche di capire se è possibile aumentare la sensibilità di chi avrebbe la disponibilità economica per poterlo fare, ma magari per tutta una serie di dubbi, di perplessità non lo fa? Ma ritengo che probabilmente si sa meno di quello che in realtà avviene. Io conosco la provincia di Novara, devo dire che fondazioni tipo fondi all'interno della fondazione della comunità novarese, tipo il nostro, ce ne sono molti. Sono stati fatti da imprenditori, da famiglie, da persone normali che intravedono uno scopo, un beneficio in una parte particolare del territorio e quindi istituiscono all'interno della comunità, della Fondazione della Comunità Novarese, un fondo dedicato a uno scopo preciso. Di questo non si dà molta pubblicità, un po' per, come dire, l'understatement noto dei piemontesi, un po' perché comunque si preferisce fare che pubblicizzare. È comunque importante che ci sia una pubblicità perché è comunque un esempio importante. Infatti, che comunque nel piccolo anche in provincia viene seguito. Giacomo, senta, qual è il progetto al quale lei o la sua famiglia o suo zio è più affezionato? Ma quelli che avete sostenuto per il vostro ogni territorio? Ogni anno si sostengono dei progetti diversi che abbiano appunto un riverbero all'interno del territorio dove noi siamo cresciuti, dove la mia famiglia abita appunto 5 generazioni, e quindi ce ne sono stati vari. Abbiamo aiutato a recuperare delle chiese, a restaurare delle opere d'arte, ma anche c'è una particolare attenzione a tutto ciò che va in aiuto alle persone meno abili, alle persone meno fortunate di noi, e cerchiamo di alleviare, come dire, determinate dipendenze anche economiche delle persone che comunque portatori di handicap hanno extra costi e magari non tutti possono permettere. Giacomo Ponti, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato l'esperienza della sua famiglia a sostegno della comunità di Novara attraverso l'attività della Fondazione di Comunità di Novara. Grazie a grazie. Voi. E noi continuiamo con i nostri altri ospiti prendendo a spunto alcune domande di alcuni ascoltatori. Ugo da Palermo: io voglio andare subito all'estremo sud del nostro paese perché ci piace fare anche questo collegamento ideale questa mattina, visto che stiamo parlando soprattutto dell'attività delle fondazioni di comunità del nord. Ugo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno. al di là delle fondazioni che fanno capo a persone o a dei grandi filantropi o a dei grandi gruppi industriali, quindi gestiscono, immagino, le proprie risorse per queste opere sociali, come diceva prima il dottor Ponti, le altre fondazioni, quelle che fanno capo a istituti di credito o ad altri enti, o altre piccole fondazioni che gestiscono lasciti e altro tipo di capitali che provengono comunque da filantropi che non gestiscono in proprio, sì, sì, i capitali, come sono organizzate? Cioè, hanno dei dipendenti, questi dipendenti chi li paga? Mm-hmm. Li paga la fondazione, sì, attraverso, sì, la gestione dei capitali di terzi o sono dei volontari? Ecco, questo lo chiedo. Certo, Ugo, domanda assolutamente pertinente, che era un aspetto al quale volevamo arrivare con Mario Romano Negri, perché da quello che mi ha raccontato prima di partire con la nostra trasmissione, intanto tutte le persone che operano nell'attività delle fondazioni di comunità delle quali stiamo parlando questa mattina sono tutti volontari, dottor Negri, giusto? Dunque, questa è una scelta che ciascuna fondazione fa. Noi, per esempio, nella nostra fondazione operiamo con personale volontario, abbiamo solo un'impiegata a tempo parziale, per il resto sono i nostri volontari che quando devono andare a Milano per qualche riunione si pagano loro il treno, e questi da 12 anni a questa parte stanno operando perché ritengono gratificante operare per una fondazione come la nostra. Però da quello che è anche l'esperienza di altri tipi di fondazioni sul territorio, immagino che ne abbia guardate un po' in giro, dottor Negri, probabilmente c'è anche chi si organizza, ecco, con dei dipendenti, certo. Sì, sì. Io sono stato fortunato che quando sono partito ho trovato un nucleo di ex dipendenti bancari in pensione che, per la gioia di trovarsi ancora assieme fra di loro, ma soprattutto per lavorare per un'iniziativa di grande reputazione, è stata la fortuna della nostra fondazione. Infatti noi abbiamo costi di gestione che si aggirano intorno al 2,5% delle erogazioni che facciamo, cioè noi eroghiamo il 97,5% di tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Dottor Negri, allora arriva il signor Ponti del caso sulla provincia di Lecco e che vorrebbe appunto attivarsi attraverso una propria donazione per sostenere il territorio di Lecco, che è quello di riferimento per quello che riguarda la sua attività. Allora, come documentate a questo imprenditore o a questa persona che può fare anche un'altra attività nella sua vita l'impiego del denaro appunto nella fondazione? Allora, il patrimonio che dona questo donatore non è più suo, diventa proprietà della fondazione. Però, come dicevo prima, la fondazione, la nostra almeno, ogni anno rendiconta al donatore quanto ha reso il suo patrimonio. Ogni anno può decidere volta per volta come spendere questo reddito, ovviamente nell'ambito dei bisogni sociali del territorio. Volevo ritornare un attimo a Silvio Valtorta, siccome stiamo parlando di piccoli Bill Gates italiani, ma in realtà è necessario avere delle grandi dotazioni patrimoniali, essere molto ricchi per poter dare il sostegno a queste fondazioni di comunità, Valtorta, oppure avete anche un limite di ingresso, chiamiamolo così, dei vostri sostenitori? No, non abbiamo nessun limite di ingresso. In definitiva noi sentiamo fortemente il ruolo di intermediario etico che svolgiamo tra coloro che vogliono donare e le organizzazioni non profit o le istituzioni che hanno progetti di utilità sociale. Quindi in questo senso siamo sempre aperti ad analizzare, a costruire con il donatore un percorso che vada nelle direzioni auspicate da parte dei potenziali beneficiari. Salva Danaio. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Salva Danaio, in cui vi riproponiamo alcune delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Dopo aver affrontato il tema della beneficenza e delle donazioni, parliamo adesso delle mosse da seguire per avviare un'impresa e mettersi in proprio. Deborah Rosciani ne ha parlato lo scorso 24 giugno con Francesca Barbieri, Sole 24 Ore, e Amedeo Sacrestano, dottore commercialista e responsabile dell'area agevolazioni fiscali e finanziarie dello studio legale Santa Croce di Roma. Realizzare un sogno nel cassetto, svolgere un'attività senza essere alle dipendenze di un'impresa o di un ente, mettersi in proprio permette di crearsi uno spazio personalizzato nel mondo del lavoro. Il progetto di avviare un'impresa non si può però certo improvvisare e per partire con il piede giusto bisogna studiare con attenzione il percorso che si decide di intraprendere e imparare a destreggiarsi nella giungla dei finanziamenti pubblici e privati. Il primo ostacolo da superare è infatti la ricerca di fondi e finanziamenti per fare partire la propria attività, Chi decide di avviare una nuova iniziativa imprenditoriale può contare su un sostegno che è necessario soprattutto nella fase iniziale. Eppure spesso le agevolazioni a disposizione non sono conosciute o sembrano complicate da raggiungere. Autoimprenditorialità e autoimpiego. Queste le due alternative valide per usufruire delle agevolazioni. La prima comprende nuove imprese di piccole dimensioni, cooperative incluse, composte in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. E in questo caso si può contare su un insieme di aiuti, contributo a fondo perduto e mutuo tasso agevolato, che arrivano a coprire fino all'80-90% delle spese nelle regioni meridionali e del 60-70% per quelle del centro-nord. Per quanto riguarda invece l'autoimpiego, vale a dire lavori autonomi, franchising e microimprese avviati da chi è disoccupato o in cerca di prima occupazione, occorre presentare la domanda in base al modello sul sito di Invitalia. Allora, Francesca Barbieri, il tema portante, come dicevamo, è come individuare le risorse disponibili per finanziare una propria attività ed iniziativa imprenditoriale, sia che si tratti di iniziativa ex novo, sia che si tratti di ampliamento di attività, e il tutto parte dai presupposti previsti da questa legge 185 del 2000. Sì, diciamo che è lo strumento principale a livello nazionale, che ha due, diciamo, filoni, che sono l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego. Ma non c'è solo la legge nazionale, ci sono tutta una serie di bandi gestiti dalle regioni, e effettivamente qui è difficile districarsi tra le varie fonti di finanziamento, per cui è importante sapere come muoversi e dove andare a trovare le informazioni. E a questo proposito, proprio sul nostro sito abbiamo individuato, appunto, abbiamo raccolto i principali bandi regionali aperti in questo momento, per cui chi fosse interessato può andare sul sito, cercare, certo, nella propria regione di riferimento quali opportunità ci sono in questo momento. E infatti, quindi, dottor Sacrestano, proprio per entrare subito nel merito dei suggerimenti pratici da dare ai nostri provetti imprenditori all'ascolto, il primo passo da fare, se si ha un'idea imprenditoriale che non deve essere, come dire, un progetto chissà di quale tipo, non è che dobbiamo improvvisarci inventori e studiare chissà quale brevetto, ma magari mettere su un negozio, avviare un'attività di tipo commerciale, la prima cosa da fare secondo lei è quella di andare a uno sportello regionale dedicato a queste start-up? Beh, forse ancora prima di andare allo sportello regionale è più semplice collegarsi al sito web ormai di questi enti e di queste istituzioni, che in genere mettono a disposizione, poi chiaramente con delle differenziazioni anche in ragione dell'efficacia dell'azione di questi enti, mettono a disposizione una serie di notizie che sono utili ad orientare gli aspiranti imprenditori verso possibilità diverse di agevolazioni o gestite direttamente da questi enti o magari gestite da altri soggetti che trovano uno spazio informativo sui siti web di questi enti. Quindi direi la prima cosa collegarsi col sito web della regione, della provincia, della camera di commercio, dei comuni, che a volte danno degli incentivi anche su base locale all'avvio di nuove iniziative economiche, e poi da lì avviare una navigazione che può portare anche a trovare l'incentivo che fa al caso proprio. Allora, ci sono già delle domande. Per esempio, Luisa da Macerata ci scrive: sono previsti incentivi per imprese agricole al femminile avendo anche una certa età, 45 anni, Luisa, non dica così, per carità del cielo, perché è nel pieno della sua vita professionale, e soprattutto noi donne chissà ancora quanto dovremo lavorare prima di arrivare alla pensione, per cui ben venga la sua iniziativa. Tra l'altro, se non sbaglio, forse nella guida, Francesca Barbieri, ci sono anche delle pagine dedicate alle nuove imprese avviate da donne? Sì, c'è una parte in cui in realtà si dice che comunque la legge nazionale, che è la 215 del 92, al momento è priva di fondi, però diciamo che abbiamo cercato di mettere insieme un po' di iniziative, di bandi aperti sul territorio, quindi risorse anche e soprattutto per chi avvia un'attività al femminile al sud. Ce ne sono. Amedeo Sacrestano, esperto del Sole 24 Ore su questi argomenti, ci spiega la differenza fra i due grandi maxi capitoli previsti appunto dalla legge 185 del 2000. Che cos'è l'autoimprenditorialità? Che cos'è l'autoimpiego? Perché sono differenziati in questa maniera? Beh, molto semplice, nell'autoimprenditorialità si cerca di sostenere delle realtà imprenditoriali già più strutturate, quindi i limiti di investimento ammissibili sono molto più alti e la norma prova a dare una mano sotto forma di contributi in conto impianti o contributi in conto gestione, quindi una disponibilità a fondo perduto di risorse per delle realtà economiche che possono prevedere fino a i vecchi 5 miliardi di lire, adesso 2 milioni e rotti di investimenti ammissibili. Nell'autoimpiego invece il focus è completamente diverso. La norma in questo caso si rivolge a delle piccole iniziative economiche che possono essere portate avanti o da singoli soggetti o persone fisiche, che possono essere ditte individuali o anche liberi professionisti, il giovane avvocato, il giovane commercialista, il giovane medico che vuole intraprendere per la prima volta l'attività professionale, che quindi ha bisogno di dotarsi di un minimo di infrastrutture per esercitare questa attività, può accedere ai benefici di questa norma andando a finanziare sino ad un investimento massimo di 25.000 euro circa di investimenti, e può ottenere anche un contributo alle spese di gestione dei primi anni, chiaramente di importi molto più limitati, quindi il focus è diverso. Da un lato delle realtà già strutturate, ma chiaramente con un limite dimensionale di investimento, dall'altro lato iniziative singole che possono essere quelle dell'imprenditore individuale, del libero professionista, ma anche quelle del franchising, una cosa molto interessante che però può essere anche in questo caso sviluppata sempre con un limite dimensionale preciso. Dottor Sacrestano, lei ha detto una parola molto importante prima, sia che si tratti di progetti finanziati con il meccanismo dell'autoimprenditorialità, sia che si tratti di progetti finanziati con il meccanismo dell'autoimpiego, si tratta sempre in ogni caso di contributi a fondo perduto, capito male? Assolutamente. Quindi sì. Gli imprenditori non devono poi restituirli. Allora, diciamo che in buona parte si tratta di interventi strutturati che prevedono diverse forme di agevolazione, addirittura una parte dell'agevolazione viene erogata sotto forma di consigli, di tutoraggio, di monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana per l'Attrazione degli Investimenti, l'acronimo Invitalia, che non lascia mai solo l'aspirante imprenditore sin dal momento in cui presenta l'istanza, perché non si tratta solo di una valutazione di progetti di impresa, ma si tratta di un'operazione, mi consenta, portata avanti da tanti anni da una società che nel corso del tempo ha cambiato la denominazione, ma ha portato avanti la stessa filosofia, che è quella di trasferire al territorio una cultura di impresa in diverse forme, quindi anche la consulenza viene considerata aiuto che però si estrinseca sotto forma di contributi a fondo perduto per buona parte, sia per realizzare gli investimenti sia anche per le spese di gestione, l'energia elettrica, l'affitto, le pulizie, e poi una parte anche sotto forma di mutuo a tasso agevolato. Ma dottor Sacrestano, mi scusi, chi finanzia questa organizzazione che a sua volta finanzia a fondo perduto gli nuovi imprenditori? Si tratta di fondi del governo italiano per buona parte, Invitalia è un soggetto giuridico che opera sotto forma di società per azioni che è interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, quindi per buona parte si tratta di fondi del Ministero dell'Economia che vengono messi a disposizione per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, in qualche caso vengono utilizzati anche dei fondi strutturali dell'Unione Europea su capitoli di spesa specifici dove Invitalia è il soggetto gestore dell'iniziativa. Tra l'altro per l'autoimpiego nel 2010 c'è stato davvero un boom di domanda. Adesso con Francesca Barbieri faremo anche un punto della situazione, però siccome ho promesso anche ai nostri ascoltatori che li avrei fatti intervenire rapidamente, allora sentiamo un po' quali sono le idee imprenditoriali di Rocco dalla provincia di Bari. Rocco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Io ho intenzione di, non tanto per me, perché io ormai sono arrivato all'attività alla un'età pensionabile, ma per quanto riguarda i figli, io ho intenzione di aprire un'attività commerciale per quanto riguarda nel settore del commercio qui a Bari. Sì. Ci sono degli incentivi o delle... Questo desideravo sì, capire. Quindi a Bari, ma ha per esempio individuato già un settore particolare nel quale le interesserebbe operare, Rocco? Nel commercio. commesso abbigliamento, scarpe. Ah, ho capito, ecco qua. Allora, Sacrestano, Rocco ha per certi versi un'idea piuttosto vaga. Lui dice: voglio aprire un'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento, nel settore del calzaturiero. Da dove comincio qualora mi interessassero appunto fondi per finanziare l'avvio di questo negozio? Beh, allora, sicuramente dal primo punto che abbiamo anche evidenziato nella guida oggi in edicola è quello dell'auto. Impiego, l'autoimpiego, come dicevo prima, finanzia però solo le particolari iniziative del franchising, quindi nel caso in cui l'iniziativa fosse realizzata attraverso la formula dell'affiliazione commerciale con una delle strutture riconosciute da Invitalia o anche con una struttura che può successivamente convenzionarsi con Invitalia, certamente un primo riferimento può essere l'incentivo messo a disposizione dalla 185. Ad ogni buon conto, gli incentivi per le attività commerciali, soprattutto nel Mezzogiorno, possono essere ritrovati sia su altre leggi nazionali, ma per chiaramente una dimensione di investimento che supera probabilmente quella evidenziata dal lettore. Nel caso specifico del lettore è molto probabile che si possa trovare un incentivo regionale specifico, quindi gestito dalla Regione Puglia, che prevalentemente tendono a mettere insieme diverse attività anche di natura commerciale per proporle al mercato in maniera aggregata. Da ultimo mi sentirei certamente di consigliargli di sentire la locale Camera di Commercio o, come dicevo prima, molto più semplicemente di fare un'analisi di quelle che sono le opportunità segnalate sul sito web della Camera di Commercio. Allora, tra l'altro, dottor Sacrestano, una volta che Invitalia appunto ha erogato questi finanziamenti, trovando evidentemente, riscontrando delle caratteristiche vincenti nell'idea imprenditoriale dei proponenti, chiede conto anche poi di come si sviluppano queste attività? Beh, assolutamente sì, come dicevo prima si tratta più che di un'operazione di sostegno economico, che pure c'è e in molti casi è rilevante, di un'operazione di trasferimento di una cultura dove l'ente pubblico in buona sostanza è a fianco dell'aspirante imprenditore per spiegargli sia come addirittura nelle fasi iniziali si progetta l'attività economica e quindi gli trasferisce una tecnicalità in maniera tale che si possano evitare per quanti possibili dei passi falsi, ma soprattutto poi gestione durante ed ex post, Invitalia certamente chiede conto di come si è sviluppata di questa gestione e di come questi denari pubblici sono stati investiti. Alla fine non si tratta di un regalo, tra virgolette, da parte dello Stato ad un soggetto privato, ma si tratta di un investimento che in qualche modo deve creare occupazioni di sviluppo e di crescita per il territorio. Salva Danaio. Ben ritrovati nell'ultima parte di questa puntata speciale di Salva Danaio, dedicata al meglio delle puntate andate in onda nei mesi scorsi. Continuiamo a parlare delle mosse da seguire per avviare un'impresa e mettersi in proprio, tema al centro della puntata andata in onda lo scorso 24 giugno. Francesca Barbieri, siamo già a metà del 2011, quindi probabilmente la situazione sarà cambiata ulteriormente, ma nel 2010 che cosa è successo? Qual è stato il bilancio di Invitalia? Vedo molte domande, soprattutto per il filone autoimpiego. Sì, l'autoimpiego ha riscosso veramente l'interesse delle persone. Nonostante la crisi c'è stato un boom di richieste e rispetto al 2009 sono aumentate di oltre il 30%. Per quest'anno si conferma il trend positivo. Da Invitalia ci hanno mandato il bilancio dei primi 5 mesi dell'anno, sono arrivate oltre 4.000 domande e un migliaio di iniziative sono già state finanziate per 60 milioni di investimenti ammessi. Esiste, perlomeno vi risulta che Invitalia come dire, dia l'opportunità di avere anche una mappatura dei settori più vivaci? Beh, senz'altro in base alle richieste che sono arrivate lo scorso anno ci sono alcuni settori che come dire, sono stati maggiormente aiutati, in particolare il turismo e poi anche l'artigianato, i servizi alle persone, il commercio e i servizi alle piccole e medie imprese. E allora sentiamo se anche queste indicazioni possono essere utili a Corrado da Modena che vorrebbe operare nel settore dell'agriturismo. Corrado, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo avviare appunto un'attività agrituristica però creando una cooperativa di lavoro tra persone che attualmente non sono coltivatori diretti, quindi già da qua emerge la prima difficoltà. Poi quello che ho visto è che generalmente ci sono delle difficoltà a reperire dei finanziamenti o trovare, diciamo, l'interlocutore giusto che possa dare l'aiuto per iniziare un progetto complessivo. Vado subito a Sacrestano per avere un'idea su come Corrado potrebbe muoversi appunto per allestire questa cooperativa di lavoro nell'ambito agrituristico a Modena. Allora, sì. Certamente la domanda è complessa perché giustamente l'ascoltatore faceva riferimento ad un comparto particolare, quello dell'agricoltura, e quindi mi riallaccio anche a quello che dicevamo prima sulle imprese femminili ed agricole. Sì. L'agricoltura ha delle regole assolutamente peculiari, poiché è un comparto, ripeto, che viene gestito anche a livello comunitario con delle direttive diverse, quindi le norme che vanno bene per gli altri comparti non necessariamente si applicano anche all'agricoltura. Ciò detto non significa che vi siano meno opportunità, anzi ve ne possano essere anche di migliori, è evidente però che la ricerca diventa più complessa e bisogna appoggiarsi a qualcuno, non necessariamente dei consulenti privati, poiché anche in ambito agricolo esistono tantissime realtà che sono in grado di indirizzare e aiutare chi volesse mettersi in proprio o volesse portare delle iniziative strutturate. Nel passato, ma anche oggi, sono attive dei gruppi di azione locale, che sono delle strutture specifiche che operano proprio per la promozione della cultura d'impresa in ambito dell'agricoltura, ma anche patti territoriali o altri strumenti di aggregazione che sono promossi dagli enti locali, a volte anche dalle confederazioni di diverso tipo, che possono aiutare a trovare una forma di sostegno. Ecco, ma le risulta che ci sia il limite che Corrado ha detto, nel senso che io sono una giornalista, adesso mi viene questo esempio tanto per farmi capire un po' meglio, qualora avessi, non ce l'avrò mai, le risorse finanziarie per voler avviare un'attività imprenditoriale parallela al mio lavoro, non voglio investire nel settore agrituristico, cioè io non posso farlo perché non sono un'agricoltrice, si dice. Non ha la qualifica, bisogna avere sì una qualifica di imprenditore agricolo, che è l'Unione Europea che ci chiede, ma che non è detto che non si possa acquisire in tempi rapidi. Non lo sapevo. L'agricoltura non è, noi siamo abituati probabilmente a vedere in chiave minore l'agricoltura come una forma di attività che non richiede un approccio complesso alla gestione. In realtà l'agricoltura, soprattutto fatta in chiave innovativa, ed è probabilmente l'unica fonte di possibile sviluppo dell'agricoltura in Italia, richiede delle competenze particolari, a partire per l'appunto dalle regole comunitarie che governano quello che può essere fatto con facilità. E ciò che non deve essere fatto, perché alcuni tipi di produzioni agricole addirittura hanno delle eccedenze a livello nazionale e anche a livello internazionale. Certo. Quindi è evidente che si vuole persistere a portare avanti un certo tipo di approccio alla gestione dell'agricoltura, e lì non solo non si può avere l'aiuto dello Stato, ma probabilmente lo Stato o chi per lui deve dare delle indicazioni diverse. Quindi cosa facciamo fare a Corrado per potersi documentare al meglio e non partire allo sbaraglio in questa sua nuova attività? Gli direi certamente di provare a sentire quelli di Invitalia, perché in qualche caso le cooperative vengono sostenute anche con la legge che oggi abbiamo approfondito sul quotidiano, ma gli direi soprattutto di mappare sul territorio l'esistenza di iniziative che possono essere il GAL o qualche patto territoriale di tipo agricolo, ma anche verificare iniziative da parte di soggetti dell'aggregazione con Confagricoltura o altri soggetti che istituzionalmente hanno l'onere di mettere insieme chi già esercita un'attività economica, ma non necessariamente escludono chi non fa questa attività, e provare a verificare se c'è già un'animazione territoriale. Nel caso di specie mi risulta che l'Emilia sia enormemente attiva da questo punto di vista, e soprattutto la regione Emilia Romagna, quindi gli direi di verificare sul sito web della regione Emilia Romagna, che sono certo, pur non avendolo visto di recente, abbia una mappatura esatta di tutte quelle che sono le incentivazioni all'agricoltura, perché gli incentivi all'agricoltura prevalentemente vengono gestiti dalle regioni. Quindi gli direi di accedere certamente al sito web della regione, di verificare chi sono gli attori delle politiche di sviluppo e quali sono le misure al momento in essere. Ottimo. Sono certo che ne troverà tantissime. Certo, allora intanto vi così espulcio insieme a voi un po' delle domande che ci stanno arrivando, delle segnalazioni di iniziative iniziative imprenditoriali che ci stanno arrivando e per le quali ci chiedono informazioni i nostri ascoltatori che non riusciremo ad accontentare. C'è Domenico da Roma che vorrebbe aprire una scuola di sartoria per uomo, interessantissimo. E poi c'è per esempio un altro ascoltatore, Ciro da Milano, che vorrebbe aprire un'attività nei pannelli fotovoltaici, quindi chiede se ci sono degli incentivi. È l'attività del momento quella, perché dobbiamo in assoluto sfruttare forme di energia alternativa, per cui io immagino che tanti incentivi ci saranno appunto sul tema. E altri ascoltatori che vogliono aprire per esempio studi di mediazione creditizia, attività di servizi in questo ambito, per cui io intanto vi suggerisco chiaramente di prendervi la guida di oggi del Sole 24 Ore e magari intanto cominciare ad avere un orientamento di massima su tutti gli strumenti a disposizione per la vostra immagine di startup che avete in testa. Pierluigi da Verona, velocissimo, grazie, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. No, niente, io volevo un'informazione. Io ho fatto un'attività in franchising nel 2001, volevo sapere se, cioè, per tutelarsi insomma un po' da questi franchise, perché io ho avuto un po' una brutta esperienza. Ne vorrebbe ricominciare un altro, Pierluigi, oppure? Ma ci sarebbe una mezza idea, ma ovviamente è un po' faticoso, ecco, perché avendo questa brutta esperienza me la dovrò portare avanti per un bel po'. Ho capito. In che settore aveva attivato il franchise? Era un po' generico, perché era oggettistica e regalo, poi c'era pizzeria al taglio, gelaterie, uno poteva scegliere un po'. Ah, però. Tanto, ecco. Va bene, Pierluigi, allora, siccome ci mancano pochi minuti prima di salutarci, Amedeo Sacrestano, il franchising è un mondo a parte rispetto a tutto quello che abbiamo detto questa mattina? Beh sì, potrebbe essere un mondo a parte. In ogni caso avere l'assistenza di Invitalia anche per la strutturazione delle operazioni in franchising è certamente una garanzia in più, anche perché, ripeto, c'è proprio un albo gestito da Invitalia, quindi i soggetti che si propongono con questa formula commerciale sono certamente già stati esaminati, vagliati attentamente da Invitalia. Io vorrei dire qualcosa sulla sartoria e sul fotovoltaico, perché sono certamente dei temi attualissimi ma molto diversi. Per le sartorie è evidente che bisogna rivolgersi ad un tipo di incentivazione più in chiave locale, quindi verificare se ci sono delle iniziative gestite dalla regione o addirittura dalle province, da gruppi di azioni locali. Il fotovoltaico invece, lì il livello degli investimenti richiesti è certamente maggiore. Certo. A quel punto è evidente che non vanno bene nemmeno l'autoimprenditorialità o l'autoimpiego assolutamente di Sviluppo Italia, perché lì ci sono dei limiti dimensionali all'investimento. Ciò non significa che non ci siano delle agevolazioni. Termina qui questa puntata speciale di Salvadanaio. Buona giornata a tutti, a domani.